Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono milioni di edifici per miliardi di metri quadri equivalenti in Italia, diciamo pure che sono la stragrande maggioranza, che hanno bisogno di essere riqualificati, perché costruiti prima che venisse emanata una qualunque norma, infatti, sia di prestazioni energetiche che di comportamento sismico. Ma proprio conciliare queste due esigenze non è sempre facile, soprattutto nelle zone climatiche, dove più che difendersi dal freddo invernale bisogna proteggersi dalla calura estiva. Ne parliamo con Irene Paradisi, che è ricercatrice del Fraunhofer Institute di Bolzano, che ha curato una ricerca che affrontava proprio questo tema. Buonasera Paradisi. Buonasera. Allora, cerchiamo proprio di inquadrare un po' il problema. Perché questi due obiettivi, efficienza e, diciamo così, antisismicità, possono risultare contraddittori? Dunque, possono risultarlo soprattutto in riferimento agli edifici di legno su cui ci siamo focalizzati, perché la flessibilità e la leggerezza di un edificio permette di rispondere alle sollecitazioni sismiche in maniera molto più efficace di quanto un corpo che gli si opponga. Quindi un corpo rigido e pesante. Se la sollecitazione è troppo elevata si può spaccare. Invece il risultato di edifici che riescono a seguire in qualche maniera la sollecitazione sismica permettono di raggiungere qualità di livelli migliori con spessori e materiali usati in quantità minore. Certo. Ecco, tutto questo va contro il discorso energetico, contro una delle strategie. Certo, che però è la più comune, no? Più comune, esatto, che è quella che molto spesso si è applicata e che si vede in tante parti d'Italia, che è la massa termica. Che cos'è? Proviamo a spiegarlo. Diciamo che la massa termica è la capacità di un materiale di assorbire o cedere energia. Calore, chiamiamolo così. Con un certo ritardo temporale. L'efficacia della massa termica è determinata dal tipo di materiale con cui questa è fatta, dalla posizione che ha all'interno dell'edificio. Certo. E dallo spessore che ha, più tanti altri fattori, però questi sono i determinanti. Ecco, possiamo provare a spiegarla così. Diciamo che un muro con una certa massa, appunto massiccio, per esempio esposto al sole, si surriscalderà ma accumulerà calore durante la giornata. E non è che non lo trasmetta il calore, ma lo trasmette lentamente, per cui nel frattempo arriva la notte, la temperatura scende e il muro può liberarsi di una parte del calore che ha accumulato durante il giorno. Invece i materiali isolanti trasmettono poco calore, ma lo trasmettono subito. È corretto? Sì. Perfetto, bene. Così, un'altra cosa che fa il materiale isolante è che tutto il calore che viene prodotto all'interno di una casa, che è tanta parte in estate, la presenza delle persone, certo, molto, importante, produce calore, tutte le attrezzature all'interno producono calore, ecco, sia una parete molto isolata, questo calore rimane all'interno dell'edificio, certo, rimane all'interno dell'ambiente e quindi mi aumenta la temperatura via via che le ore passano. Ecco, la vostra ricerca è andata proprio a cercare di capire come si potevano mettere insieme queste due esigenze su degli edifici particolari, quelli in legno, che certo non sono la tradizione tipica per esempio del sud Italia. Ecco, lì intanto però che cosa avete trovato? Abbiamo verificato che prestazione potesse avere un edificio di legno, sì, quindi particolarmente leggero, in condizioni climatiche, in località caratterizzate da un'altra sollecitazione estiva, soggette ad avere problemi di surriscaldamento. Abbiamo cercato di verificare edifici di legno altamente isolati e confrontandoli con edifici che invece avessero meno isolamento ma più massa. La massa termica all'interno, esatto, all'interno di una fascia di valori accettabili per la prestazione sismica. Certo. Perché la caratteristica principale degli edifici di legno rimane comunque la prestazione sismica. Certo. Il risultato della ricerca ha dimostrato che l'inserimento di massa entro certi limiti a livello di simulazione energetica, puramente teorico, può raggiungere dei livelli ottimi, così come però li raggiunge un edificio altamente isolato di legno senza inserimento di massa, ma specificamente utilizzando materiali densi, che significa tendenzialmente materiali isolanti naturali come la fibra di legno. Certo, quindi si usa un isolante che però ha già una sua massa, diciamo, intrinseca. La vostra ricerca si è concentrata in particolare su degli ipotetici edifici nuovi. Dicevamo che il grosso del problema è riqualificare l'esistente. Qui esistono oggi delle strategie consolidate per prendere due piccioni con una fava, quindi per esempio un tipo di intervento che è sia antisismico sia migliorativo dell'efficienza energetica? No, io attualmente non ne conosco alcuno. Questo vuol dire che c'è probabilmente un bel po' di lavoro da fare, di ricerca. certo, sicuramente sì. Ricerca che cerchi di integrare aspetti differenti, che cerchi di integrare per esempio gli aspetti energetici con quelli strutturali. Poi ci sarebbero anche quelli acustici che tra l'altro si attendono normative su questo versante. Esatto, ciò detto non è necessario aspettare risultati sfavillanti della ricerca per ricominciare a fare qualcosa di efficace sia in termini di risparmio energetico che strutturale. Grazie Irene Paradisi. Grazie a lei. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì, vi lascio Effetto Notte, buona serata.